la provvidenza, la scuola, le missioni. Apprensioni per la provvidenza d'Ars. Le speranze riposte da Don Vianney nella sua casa della provvidenza almeno in parte andarono fallite. Fin dal 1827 prendeva là ogni giorno il suo pasto e coltivava segreta ed intima la convinzione che ivi avrebbe passato i suoi ultimi giorni, quando gli fosse stato concesso di lasciare ad altri la cura della parrocchia. Ma l'uomo propone e Dio dispone, e qualche volta contro il desiderio degli uomini, anche se sono santi. Così, per avvenimenti imprevisti, Don Vianney fu impedito di realizzare il suo sogno e non ebbe neppure la consolazione di vedere resistere alla sua opera di educazione e di carità, almeno nelle forme in cui l'aveva ideata. Mentre prima era scuola parrocchiale ed orfanotrofio assieme, ora stava per ridursi solamente a scuola parrocchiale. La provvidenza, come l'aveva ideata Don Vianney, sembrò subito un'opera tanto singolare così che non avrebbe potuto sopravvivere al suo fondatore. Già dal 1843, tempo in cui Don Vianney soffrì una grave malattia e tentò la fuga, vi erano di quelli che con buone ragioni si domandavano se egli sarebbe rimasto in Ars ancora per molto tempo e se non era il caso di prendere dei provvedimenti affinché non cadesse un'opera che fino a quel giorno era stata di tanto aiuto non solo per Ars, ma anche per i paesi vicini. Don Vianney aveva pure pensato che sarebbe venuto il giorno in cui le direttrici da lui preposte all'opera non sarebbero state più in grado di adempiere la loro missione ed aveva chiamato vicino ad esse tre giovani di Ars, le quali avevano dapprima l'ufficio di portare un po' di aiuto nella casa per prepararsi poi a sostituire le prime direttrici. Nella sua profonda umiltà non riusciva a pensare che sarebbe stata fatica vana l'aver formato buone direttrici se al suo posto, dopo la sua morte, non fosse stato collocato un uomo della sua tempra che potesse con la sua influenza personale concorrere alla vita della provvidenza. La cosa più prudente e semplice era di affidare l'opera ad una congregazione religiosa che ne assicurasse la continuità. Così pensavano molti, compreso il primo coadiutore del santo, Don Raimond. In più, sia pure senza volere misconoscere i meriti di Caterina e delle sue compagne, non mancavano madri le quali, pur inviando al collegio le loro figlie, ritenevano che con delle religiose si sarebbe avuta una casa più rispondente allo scopo e l'istruzione delle fanciulle sarebbe stata migliore. Ne mancavano altre, più intolleranti, le quali lamentavano le condizioni delle proprie figliole che dovevano crescere in compagnia di poveri infelici raccolte dalla strada un po' in tutte le condizioni. Questi lamenti giunsero fino alle orecchie del fondatore, che non rimase insensibile, ma ne fu anzi profondamente turbato. In verità, dal momento che l'opera raggiungeva il fine che egli si era proposto, quando l'aveva ideata, egli non comprendeva come si potesse desiderare di più. Se l'Accademia voleva nelle sue scuole maestre diplomate era a farlo suo, ma forse che i buoni cittadini avevano bisogno di tanta istruzione per le loro figlie che a 12 anni dovevano poi passare ai lavori dei campi e dalla masseria? Si volevano religiose? C'erano già nelle persone di Caterina, Maria, Gianna Maria e non vi era che da mutare il vestito. Il curato d'Ars e la madre Saint-Claude. L'amministrazione diocesana che per Don Vianney conservava un'ammirazione profonda nulla ignorava degli avvenimenti di Ars e Monsignor De Vie, inquieto per l'avvenire della provvidenza, incaricò il superiore del seminario maggiore, il canonico Perrodin, di sondare le intenzioni di Don Vianney su questo punto. Il canonico Perrodin, che col concorso delle suore di San Giuseppe aveva fondato a Bourg una provvidenza la quale aveva dato ottimi risultati, in ripetute visite fece osservare a Don Vianney il beneficio che ne sarebbe venuto all'istituto di Ars, qualora egli fosse stato d'accordo a seguire la medesima via. Dopo lunghe istanze, Don Vianney finì per accondiscendere. Nel mese di maggio del 1847, la reverenda madre Saint-Claude, superiora generale delle suore di San Giuseppe, faceva visita ad una scuola della sua congregazione a Villeneuve, parrocchia vicina ad Ars. Nel medesimo tempo notificava al santo che sarebbe passata nella sua parrocchia e domandava di essere da lui ricevuta. Sembrava si trattasse di una visita casuale. In realtà questo incontro era stato anteriormente preparato e mentre la madre Saint-Claude si metteva in viaggio, anche il vicario generale di Monsignor de Vie, Don Guillemin, lasciava il vescovado per essere ad Ars quando vi sarebbe giunta la superiore delle suore di San Giuseppe. Don Vianney, che non era stato preavvisato dell'arrivo del vicario generale, se ne mostrò meravigliato e comprese tosto che si volevano precipitare le cose. Un primo colloquio col vicario generale e la madre superiora per uno scambio di idee ebbe come risultato di preparare il curato ad accettare una eventuale trasformazione del suo orfanotrofio. Ma quale fu il dolore che la notizia suscitò quando giunse alle orecchie di Caterina e delle sue compagne, che si ritenevano sicure di finire i loro giorni in quella casa tanto cara, in mezzo alle loro figlie adottive, è facile immaginarlo. Esse erano ancora relativamente giovani. Caterina aveva 41 anni, Gianna Maria Chanai 48 e Maria Figliat 39. E che cosa sarebbe stato di esse, fuori della loro casa e lontane da un'opera per la quale avevano sacrificato tutta la loro vita, il loro tempo, le loro pene, la salute ed anche il loro avvenire? Il povero fondatore vide le loro lacrime, intese i loro lamenti e lui stesso, sotto il peso di un dispiacere che forse non aveva preveduto così forte e così incontenibile, con una visione soprannaturale delle cose, cercò di sostenere con le consolazioni della fede quelle brave donne che gli erano state di tanto aiuto. Le trattative tra il nostro santo e la casa madre di Bourg durarono ancora circa 6 mesi, finché il 5 novembre 1847 fu concluso un atto privato tra Don Vianney, curato d'Ars, e la suora Saint-Claude, già Luigia Monnet, superiore generale della congregazione di San Giuseppe, il cui noviziato è a Burgo. Don Vianney faceva donazione globale di franchi 53.000 alla congregazione di San Giuseppe, la quale prendeva a suo carico la continuazione pura e semplice dell'opera intera della Provvidenza, con la scuola parrocchiale all'orfanotrofio, entrambi a titolo assolutamente gratuito. Il 13 dicembre 1847 il Consiglio di Amministrazione della Congregazione di San Giuseppe confermava questo atto in nome con l'approvazione del Vescovo di Belley ed il 5 novembre 1848, un anno preciso dopo la ratifica di questo contratto di cessione, le suore prendevano possesso dell'opera di Ars. Soppressione dell'orfanotrofio. Quando vi arrivarono, l'orfanotrofio era già quasi scomparso, non rimanendo che 2 fanciulle, le quali d'altronde non tardarono ad andarsene. Non sappiamo e non sapremo mai che cosa fosse successo, perché ci troviamo davanti a un punto molto oscuro della nostra storia e non vi è alcun documento preciso che possa portare un poco di luce. L'orfanotrofio aveva cominciato a ridursi nel 1843, il giorno in cui un timor panico aveva sorpreso i pellegrini ed i parrocchiani di Ars per la fuga del santo a Dardilly, e ciò prova che non si riteneva possibile la sussistenza della fondazione senza la sua opera e cooperazione diretta. Sappiamo che Caterina Lassagne gli aveva scritto per fargli sapere che la maggior parte delle ricoverate erano partite e che solo ne rimaneva una 15ina delle più giovani. Al contrario, sembra che nessuna delle grandi sia fuggita e naturalmente appena si seppe del ritorno del santo, anche quelle che erano partite o che erano state ritirate dai loro genitori o tutori se ne ritornarono alla provvidenza. Per precisare quale ne sia stato il numero, quando 4 anni più tardi si trattò della trasformazione per il cambiamento di direzione, non abbiamo potuto raccogliere nessun dato positivo nelle note di Caterina. Ella parla di una 60ina di fanciulle e già sappiamo che non si inquietava molto per conoscerne il numero preciso. Infatti non dice nulla per fare ritenere che le ricoverate fossero diminuite, ma afferma invece che nel 1848 si è cercata una sistemazione per le ricoverate anziane, mentre sono state rimandate le restanti di età inferiore, ad eccezione di una o due. La maggior parte di quelle povere infelici erano quindi già collocate in luogo sicuro, presso persone caritatevoli o riconsegnate alle loro famiglie. Dalla fine del 1847 era stato ridotto anche il personale della provvidenza. Le tre giovani che Don Vianney destinava alla continuazione dell'opera erano entrate nel noviziato di San Giuseppe a Bourg, ma due di esse, qualche settimana più tardi, dovevano ritornare al loro focolare domestico per il contraccolpo avutosi anche nel capoluogo dell'Aisne per le giornate del febbraio 1848. Era avvenuto qualche disordine e la maggior parte delle novizie rientrarono nelle loro famiglie. Anche quando si ristabilì l'ordine e la quiete, le due postulanti di Ars rimasero alla loro casa. Insomma, per la partenza delle orfane e per la riduzione del personale scelto dal curato d'Ars, secondo l'impressione comune, si liquidava la situazione. Rimane da studiare il modo col quale si debbano conciliare questi fatti con l'impegno preso dalle suore di Bourg per di continuare puramente e semplicemente l'opera della provvidenza. Le suore dovettero trovare ben presto spaventoso il peso che si erano addossato. Certo non desideravano la soppressione dell'orfanotrofio, ma preferivano la direzione della scuola delle fanciulle, alle quali pensavano di poter aggiungere un pensionato di condizioni modeste. Non rimane alcun documento scritto delle trattative susseguitesi in proposito, ma è verosimile che esse abbiano fatto osservare verbalmente a Don Vianney che sarebbe stato meglio trascurare per un momento l'opera propriamente detta della provvidenza per riprenderla più tardi con basi un po' diverse ed in condizioni migliori, e che tale era anche il pensiero del vescovo di Belley. Don Vianney, desideroso unicamente del bene delle anime, credeva intendere una voce interiore che gli suggeriva di non cedere su questo punto, perché abbandonato l'orfanotrofio gli pareva fosse annientata la sua opera. Si limitava perciò a pregare, senza sapere quale decisione prendere. Ma dalle sue labbra uscì un giorno questo lamento: «Il vescovo crede di vedere in questo la volontà di Dio, ma io non la vedo». Infine cedette, si rassegnò pienamente il 24 ottobre, 12 giorni prima dell'arrivo delle religiose, in una lettera a Monsignor De Vie così supplicava: «Conservo la dolce fiducia che voi ci userete la carità grande di benedire la nostra cappella e di insediare le nostre buone suore, attese con impazienza da me e dalla parrocchia intera». In più, comunicò la sua rassegnazione anche alle affezionate collaboratrici, una delle quali, Caterina Lassagne, in questo medesimo 24 ottobre, esprimeva questo voto all'indirizzo delle future maestre: «Auguriamo che abbiano tanta premura a venire come noi ne avremo a riceverle». In questa attesa, Don Vianney si era adoperato per affrettare i lavori della cappella e la domenica 5 novembre la trovò ornata delle sue statue, dei suoi quadri e delle sue reliquie. Monsignor De Vie, pieno ancora di forze, nonostante i suoi 80 anni, volle partecipare all'insediamento della nuova superiora della scuola, Suor Maria Serafina, e delle sue consorelle. Quel giorno il vescovo, dopo di avere benedetta la nuova cappella, posta sotto il patrocinio della Sacra Famiglia, vi benedisse anche una via crucis, e così si ebbe una vera festa parrocchiale. Il sindaco, conte di Garez, aveva preso posto nel coro a fianco di Don Vianney, mentre gli abitanti d'Ars riempivano la piccola navata. Poteva forse essere più simpatica l'accoglienza delle suore? E cominciava allora, possiamo dire, una nuova era per la provvidenza. Era difficile che questa casa, priva delle orfanelle, riprendesse la sua vita di un tempo piena di esuberanza. Nel contratto di cessione del 5 novembre 1847 era stato convenuto che Caterina e le sue compagne avrebbero potuto rimanere nella casa per tutta la loro vita, aiutandone l'opera con loro spirito di abnegazione. Ma, come era facile prevedere, le cose si delinearono in senso diverso. L'arrivo delle suore non fu segnato da nessun incidente degno di nota. Quando si presentarono alla provvidenza, nel pomeriggio del 4 novembre, Caterina, che le attendeva sulla soglia, rassegnò la direzione della casa con queste parole tanto semplici: Ora siete a casa vostra, e consegnò le chiavi alla superiora. Non abbandonò la casa, ma vi rimase ancora qualche tempo insieme alle sue compagne in buona armonia. Difatti, il 25 dicembre, suor Maria Serafina poteva scrivere alla superiora generale: «Con queste persone che sono con noi nella casa ci accordiamo benissimo. Solamente Gianna Maria Cianai ogni tanto ci dà qualche parola da trancuggiare, ma penso sia effetto del suo carattere, più che indice di cattiva ed indisposta volontà, ed ho ragione di sperare che tutto andrà bene». Tuttavia, la fine del 1848 ed i primi mesi del 1849, mesi di transizione e di prova, furono penosi per tutti. L'edificio della provvidenza, essendo stato trascurato tanto tempo, fu necessario provvedere ad una riparazione generale. I muri, già un poco umidi e scalcinati, richiesero l'opera dei muratori. Le suore e l'atteggiamento del curato d'Ars. Naturalmente, la separazione delle antiche direttrici dalle suore avvenne con buoni sentimenti di fraternità. E mentre Gianna Maria Cianai si ritirava nel villaggio presso una sorella, Caterina e Maria accettavano due piccoli appartamenti vicino alla canonica, ove si occuparono dei paramenti della chiesa, della biancheria e degli addobbi degli altari, e nel preparare il cibo per il loro curato, impiegando poi il tempo libero nella visita ai malati o nel filare il lino. Caterina non farà il broncio alle suore, ma andrà a trovarle con frequenza, larga di consigli a chi aveva preso il suo posto. Di più, ogni mese nella loro stessa cappella presiederà la riunione delle associate del Rosario Vivente. Nei 15 giorni che seguirono la presa di possesso da parte delle religiose, Don Vianney conservò un atteggiamento di riserbo e quasi di aspettativa, cessando di prendere i pasti alla provvidenza per farsi servire nella sua camera. Allora aveva 62 anni e si sa che anche per un uomo consumato in virtù non si modificano senza pena le abitudini contratte da lunga data. Ma nonostante si vedesse il dolore dipinto sul volto, non fu mai sentito da lui un solo lamento. Se uscì dalla sua bocca una parola di rammarico, fu a proposito delle orfanelle, sempre a lui care, che non aveva più intorno a sé. Erano pur sempre, infatti, quelle buone orfanelle che egli aveva associato a tutte le sue opere e alle preghiere delle quali aveva attribuito tante grazie singolari. Ora questo appoggio gli veniva a mancare. Un giorno al conte di Garez aveva fatto questa confidenza, per lui ben amara: «Alla provvidenza si sono rimproverate molte cose. Si diceva che le fanciulle vi erano tenute male, e tuttavia il Signore operava prodigi in loro favore». Ma erano appena passati 15 giorni quando il santo cominciò a riapparire ancora alla ricreazione delle fanciulle, parlando con esse con la sua abituale dolcezza, con sommo giubilo delle educande e delle maestre sempre felici di rivederlo. Ogni tanto andava a visitare la scuola, ma ormai non doveva più preoccuparsi per farla vivere e prosperare, perché sotto questo aspetto era passata interamente a carico delle suore. Altre opere importanti attirarono poi la sua attenzione e godettero della sua generosità. Alle suore Don Vianney lasciò completa libertà di azione. Avevano i loro superiori, la loro regola, le loro abitudini particolari, e questo doveva bastare. Non si riservò quindi se non la direzione spirituale delle allieve. Ma dal giorno in cui i missionari si stabilirono negli appartamenti contigui alla scuola, riprese anche la sua antica consuetudine di visitare le allieve e le suore ogni giorno, e quando le fanciulle entravano in scuola, verso 1:30 del pomeriggio, amava benedire ora l'una ora l'altra con un segno di croce sulla fronte. A prova della sua simpatia rispettosa per le nuove direttrici, che avevano cominciato a riprendere anche delle interne, affidò ad esse la sua nipote di Dardigli, di un carattere piuttosto vivace. E quando un giorno gli giunsero dei lamenti per le continue monellerie della fanciulla, egli rispose sorridendo: «Cosa volete? Nella nostra famiglia siamo tutti uguali, non si vale niente». Suor Saint-Lazare ci racconta che una volta l'onore di presentare al santo un mazzo di fiori, nel giorno della sua festa, toccò a questa allieva un po' svagata. «Bambina mia», disse il santo, pure accettando i fiori, «un'Ave Maria vale ben più di tutto questo». Marta Miar dice: «Quando venni ad aprire una bottega nel villaggio, l'anno 1850, la provvidenza cominciava a mutare il suo primitivo aspetto di povertà, grazie al decoro procurato dalle suore, ed io ebbi l'impressione che il curato ne soffrisse, ma egli non diede a vedere mai la minima amarezza». Difatti, anteriormente, quest'opera era stata organizzata secondo il regime della sua vita e si erano avuti dei miracoli a dimostrare che le preghiere che salivano da una tale indigenza erano gradite in cielo. Ma i santi hanno una maniera propria di vedere e di giudicare le cose e sono tutti più o meno dei sublimi originali. Le suore hanno fatto bene a curare un miglior decoro, anche esterno. A dimostrare la stima che il santo nutriva verso la congregazione delle suore di San Giuseppe può bastare il fatto che nel 1857, per l'opera sua, entrava fra esse come postulante una sua nipote. Ogni anno, il 2 luglio, festa della visitazione della Santa Vergine, era felice di presiedere nella cappella alla rinnovazione dei loro voti, come fa fede una frase che Don Tocanier scriveva nel suo diario la sera del 2 luglio 1855. «Una menzione speciale merita la festa di oggi. La messa fu celebrata dal curato, rivestito della magnifica pianeta dell'Immacolata Concezione, e 22 religiose hanno rinnovato i loro voti nelle sue mani. Furono così numerosi i fedeli e i pellegrini che si comunicarono alla sua messa che fu consumata una pisside di particole. In quel mattino il santo, lasciando la chiesa, non sapeva o non poteva trattenere il suo giubilo ed esclamava: «Oh, com'è bella la religione! Ho pensato che vi era una specie di gara tra nostro Signore e le religiose, sue spose mistiche. Ma per quanto facciano, è sempre nostro Signore che vince». Le suore dicevano: «Io rinnovo i miei voti di castità, di povertà e di obbedienza». Ma erano esse che più ricevevano, perché a mia volta io dicevo: «Il corpo di nostro Signore Gesù Cristo custodisca le vostre anime per la vita eterna». Scuola e pensionato dei Fratelli della Sacra Famiglia. Nella sua lunga vita pastorale, Don Vianney, se si interessò dell'educazione delle fanciulle, non trascurò quella dei ragazzi. Si sa che verso il 1835 aveva già fatto insistenza presso l'allora sindaco di Ars, Michel Sèvre, perché fosse scelto come maestro Giovanni Pertinan, nipote di Don Renard. Difatti, nel 1838, questo giovane di 20 anni, provvisto del suo diploma, era accettato come maestro in Ars, ove sarebbe rimasto per 11 anni. Egli stesso dice che Don Vianney visitava spesso la scuola e che queste visite, sempre fruttuose, producevano tale effetto sui ragazzi che una sola sua parola era sufficiente per mantenerli giudiziosi per più giorni. Il santo si impegnava anche a pagare la quota per quelli che sapeva nell'indigenza. Ma coltivava sempre il desiderio che questa scuola fosse tenuta da religiosi e fosse affatto gratuita, e riuscì a combinare ogni cosa il 10 marzo 1849. Don Vianney si incaricò personalmente del mantenimento dei futuri maestri ed ottenne che 3 fratelli della Sacra Famiglia di Belley venissero a prendere il posto di Giovanni Pertinand. Il direttore, fratello Atanasio, giovane di 24 anni, cominciava così ad avere un posto importante nella vita del nostro santo. Con molto zelo, il nuovo direttore aveva pensato ben presto di aggiungere a questa piccola scuola destinata solo ai fanciulli di Ars un pensionato del quale avrebbero potuto usufruire i giovani delle famiglie benestanti dei paesi vicini. Su tale progetto si aprì confidenzialmente al santo, che fu felice di dare il suo incoraggiamento con queste parole dette senza la minima esitazione: «Sì, amico mio, fondate pure un pensionato e riuscirete. Vedrete quante anime strapperete al demonio». E difatti le iscrizioni sorpassarono le previsioni, obbligando a pensare ben presto a nuove costruzioni. Il 28 maggio 1856 Don Vianney, festoso e raggiante, benediceva la prima pietra del nuovo pensionato. Antico maestro egli stesso, nel tempo in cui si nascondeva nel lontano villaggio dei Robins, avrebbe voluto spargere ovunque i benefici dell'istruzione. Non si troverà certo nessuno che possa chiamare oscurantista questo profano delle scienze umane. Grazie alle abbondanti elemosine che venivano a lui elargite per le sue opere, contribuì con risorse non indifferenti alla fondazione di varie scuole in altre parrocchie, come a Jassan, a Beauregard, paese di Don Raimond, a Saint-Euphémie, nella diocesi di Valence. Di più, fu largo di incoraggiamento e di aiuto per la fondazione di Saint-Sorlain in sollievo dei fanciulli abbandonati, e soccorse con 2.000 franchi le scuole di Dardigli, suo paese nativo. Al parroco della sua parrocchia d'origine, che aveva dei dubbi circa l'avvenire, il santo aveva assicurato la completa riuscita dell'opera di bene, e la sua parola, secondo la testimonianza di Don Vignon, parroco di Dardigli, si avverò in modo provvidenziale, particolarmente quando nel 1880 sembrava che tutto stesse per essere assorbito nella costruzione di un penitenziario. Riteneva che non si devono contare i sacrifici quando si tratta di provvedere ad una buona educazione. Ad una madre che gli diceva di avere consumato tutto quanto aveva, ad eccezione della casa, per ben allevare i suoi figli, senza titubanza dava questo consiglio: «Ebbene, vendete anche quella e compite l'opera». La casa fu difatti venduta, ma per deliberazione provvidenziale il compratore, che morì poco dopo, aveva disposto nel suo testamento in favore di quella povera madre di famiglia, che ritornò così in possesso di quanto ella aveva già sacrificato con tanta generosità. Le missioni decennali. In quel medesimo anno 1849 Don Vianney non aveva pensato solamente alla scuola dei fanciulli, ma si era interessato anche per un'opera di una portata più generale, destinata a fare maggior bene ancora. Sapeva, per personale esperienza, di quanta utilità siano le missioni anche nelle parrocchie più irreligiose. Egli stesso già nel 1819 aveva chiamato a predicare in Ars due certosini di Lione, ma ormai anche la diocesi di Belley aveva i suoi missionari. Infatti nel 1833, per iniziative di Monsignor Devi, i sacerdoti Maurice e Convert avevano fondato a Bourg una piccola società di predicatori. Anche quando questi due coraggiosi apostoli, presto consumati dalle fatiche, morirono, 7 anni dopo, a 6 mesi di distanza l'uno dall'altro, si mise alla testa dell'opera il canonico Camelet, che ne trasportò poi il centro a Pont-d'En. Quando Don Vianney ebbe provveduto alla sua provvidenza affidandola alle suore di San Giuseppe, Monsignor Devi gli fece dire che non dimenticasse i suoi missionari. «Consulterò il Signore», aveva risposto il santo, ed appena qualche giorno dopo, che ebbe data questa risposta, consegnava a Don Raimond una somma di 6.000 franchi, il cui reddito doveva essere destinato per fare le missioni ogni 10 anni in 2 parrocchie diverse. Poiché si trattava della conversione dei peccatori, ebbe il desiderio di fare qualche cosa di più, e dalla sua morte si constatò che aveva fondato più di 100 missioni decennali, mettendosi così nella condizione di continuare ancora dopo la sua dipartita a fare del bene, riportando a Dio i poveri peccatori. «Mi rincresce di aver pensato troppo tardi ad un'opera così eccellente», disse un giorno, riferendosi alle missioni delle quali parlava sovente. Si preoccupava di quest'opera, per la quale raccoglieva e metteva da parte ogni soldo che gli capitasse fra le mani. «Divento avaro per il Signore», diceva sorridendo, e quando aveva raccolto il necessario per assicurare una nuova fondazione, provava la gioia di un proprietario che, a prezzo di grandi sforzi, riesce ad aumentare il suo capitale. «Amo tanto le missioni», disse un giorno predicando, «che se potessi vendere il mio corpo per fondarne una, lo venderei». Un mezzogiorno del luglio 1855 il santo arrivò festante nella sala ove pranzavano molti missionari di Pont-d'En, e Don Monin, vedendolo così allegro, gli rivolse queste parole: «Signor curato, come mai siete così contento oggi?» «Ma certo, stamattina mi sono accorto che possiedo 200.000 franchi che ho impiegato presso la banca più sicura di tutto il mondo. Li ho consegnati a 3 persone che sono le più ricche che ho potuto trovare». «E chi sono queste 3 persone?» «Sono le persone della Santissima Trinità». Dal 1849 in poi, Don Vianney aveva dunque procurato ben 200.000 franchi all'opera delle missioni decennali, con le offerte che a lui venivano dalla carità altrui. Fratello Atanasio racconta il fatto seguente. Un mattino in sagrestia mi diceva: «Vi siete alzato presto stamattina?» «Come al solito, signor curato, peggio per voi. Se mi aveste imitato, avreste fatto una buona giornata, perché mi hanno dato denaro per la fondazione di una missione e ve ne è più del necessario. Uscendo stanotte dalla canonica, ho incontrato un giovane che mi ha dato 1.000 franchi per quest'opera. Poi un'altra persona nella cappella di San Giovanni Battista me ne ha date altrettanti. Ed infine ne è arrivata una terza che ha compito la somma ed anzi ha aggiunto qualche cosa di più». E quando il santo raccontava questo fatto, non erano che le 7 del mattino. Un altro giorno, racconta Don Raimond, giunse una pia signora che gli chiese: «Padre mio, avete ricevuto la lettera in cui vi annunciavo un'offerta di 50 franchi per aiutarvi nelle vostre opere di bene?» «Sì, mia buona signora, l'ho ricevuta. Ma precisamente allora incontrai un uomo che mi offrì 5.000 franchi per un'opera che mi sta molto a cuore, perché è assai utile alla salvezza delle anime. Questa offerta mi ha fatto dimenticare la vostra, per questo non ve l'ho sollecitata. Padre mio, qual è l'opera che vi è così cara?» «L'opera delle missioni». «E non potrei avere qualche parte anch'io in quest'opera? Quanto è necessario versare per fondare una missione?» 3.000 franchi. Ed il curato d'Ars ottenne da questa signora, che era una vedova di Lione e che godeva di una rendita annua di 10.000 franchi, quanto era necessario per fondare non una sola, ma 2 missioni. Per la verità, quest'opera prediletta rendeva Don Vianney anche avaro. Lo si era visto prima impegnarsi con gioia nell'arricchire di paramenti sacerdotali, statue o stendardi molte parrocchie meno ricche della sua, fra cui Beauregard, Saint-Euphémie, Dellaine, Saint-Jean-de-Tourigneux, Toussier, Franc, Ambérieu-en-Dombes, Saint-Didier-de-Formans, Saint-Euphémie, nella Drôme ed altri ancora. Anche il parroco di Dardigli aveva ricevuto direttamente dalle sue mani un ciborio ed un calice di gran valore, ma invece, a cominciare dal 1849, il santo usò ogni economia. «Il parroco di una povera parrocchia, racconta Don Stefano Dubois, mi aveva pregato di chiedere a Don Vianney la somma di franchi 80 per la compra di uno stendardo o di una statua, ed egli rispose: "No, non posso, tutte le mie risorse sono destinate all'opera delle missioni". Il 14 giugno 1855 consegnava a Don Toccanier il denaro necessario per 3 fondazioni di missioni perché lo portasse a Burgo, e dalla sera confessava ai fratelli Gerolamo ed Atanasio di avere dovuto fare un prestito per una fondazione che non voleva lasciare incompleta. «Se qualcuno non mi aiuta a restituire», aggiungeva scherzando, «venderò i miei stracci e se questi non bastano mi manderanno alle prigioni di Tolone». Un giorno, racconta Maria Ricotier, venne a trovarmi il curato con un pacco in mano e mi disse: «Devo consegnare il prezzo di una fondazione e mi mancano 200 franchi. Sareste contenta di darmeli per questo camice che è mio?» Fu in questa guisa che venne in possesso di molti oggetti comperati per contribuire alle sue opere. Oltre alle missioni, pensò anche alla fondazione di un gran numero di messe perpetue che dovevano essere celebrate con i redditi di denaro impiegato presso lo Stato. Per quest'opera aveva impiegato 40.000 franchi e la chiesa di Ars doveva beneficiare per 280 messe annuali. Siccome aveva profondamente a cuore anche l'opera della propagazione della fede, della quale aveva 10 di associati nella sua parrocchia, dispose che 70 di queste messe fossero celebrate per assicurare ai missionari la protezione della Santa Vergine, mentre la maggior parte delle altre dovevano venire applicate per la conversione dei poveri peccatori.